Bombate e bombate, come si suol dire, chi non muore prima o poi si rivede. Molto bene. Lei è libero. Ma l'avverto, se cerca di indagare, se dice in giro una sola parola su ciò che ha visto qui, le conseguenze saranno terribili per lei e per la sua famiglia. Ha capito? Adesso che cosa accadrà a quella donna? Nulla ormai potrà cambiare il suo destino. Quando qualcuno qui ha preso un impegno, non può più tornare indietro. Se ne vada. Bombate, bombate, senza stare a spiegare troppo i motivi per la mia assenza tutti questi mesi. Tra l'altro, non so neanche quando sentirete questa puntata. Comunque, siamo nel 2025 e spero stiate bene. Spero che non abbiate pensato che io sia morto. Insomma, come ho detto, comunque, nel cappello introduttivo. Chi non muore prima o poi si rivede. Comunque, al di là di questo, questa sera, questa notte in realtà, perché sto registrando a un orario, diciamo, anche abbastanza, come dire, tardo, come magari avrà intuito qualcuno, magari non tutti, da quello che avete sentito prima, ho scelto di parlarvi, di un film di Stanley Kubrick, l'ultimo film di Stanley Kubrick del 1999, Eyes Wide Shut. E diciamo che possiamo considerare questa puntata, mi piace considerare questa puntata una sorta di Christmas special in ritardo, nel senso che questo film possiamo considerarlo a tutti gli effetti un film di Natale. E che film di Natale? Finché ho rivisto tra l'altro proprio questo Natale, che poi ho rivisto anche un altro paio di volte, in realtà, appunto anche all'inizio di quest'anno. E voglio parlarvi di questo film perché innanzitutto così vi parlo di Stanley Kubrick una volta per tutte, perché Stanley Kubrick per me è forse veramente il più grande regista che sia mai esistito nella storia del cinema. Cioè, non c'è cazzi. Cioè, per me Kubrick è veramente un livello incredibile, proprio di qualità sotto tutti i punti di vista. Ed è un regista, oltre ad essere appunto, ripeto, dovrebbero venerarlo tutti. Cioè, se dite di amare il cinema e non avete mai visto un film di Kubrick, cioè, ragazzi, guarda, sparateveli tutti, ma tipo subito, capito? Cioè, nel senso. E soprattutto è stato un regista in realtà molto importante, veramente importante per la mia formazione cinematografica, perché io sì, ho sempre guardato film in realtà fin dall'infanzia. Ma questo con Kubrick c'è stato quel passo definitivo, quel passo in più. Cioè, con Kubrick proprio ho aperto proprio gli orizzonti verso proprio appunto, infatti, comunque questa trasmissione si chiama Orizzonti di Cinema, tanto per dire, quindi ci ho aperto proprio gli orizzonti per un nuovo tipo di cinema e soprattutto per dire proprio sì, cioè io amo il cinema, cioè io voglio conoscere la settima arte. Il film cardine di questa cosa possiamo considerarlo il film che mi ha cambiato la vita, non solo suo, perché poi di suo potrei citarli anche tutti, questo è Sue Chat, ora ne parliamo, però diciamo che il film forse che mi ha cambiato la vita in generale è stato 2001 Odissea nello spazio. Pur non sapendo cosa cazzo avessi appena visto a 12 anni, cioè lì proprio sono rimasto completamente attonito, cioè ho detto appunto, cioè io questa roba la voglio approfondire, questo, cioè io amo il cinema, cioè amo la settima arte, capito? E fu un'esperienza veramente travolgente. E poi da lì a poco mi sono recuperato appunto un po' tutto di Kubrick. Questo è Eyes Wide Shut, ne voglio parlare perché molto spesso secondo me è un film poco valorizzato, non poco citato in realtà, non poco discusso, soprattutto anche ultimamente è riuscito fuori questo film, però sempre secondo me un po' per i motivi sbagliati, nel senso che molta gente gli garba farci teorie sopra, teorie complottiste anche relative appunto a Stanley Kubrick, che vabbè con lui si sfonda una porta aperta e da questo punto di vista, e sempre appunto il discorso anche ora mi è uscita questa cosa di 30 minuti che sarebbero stati levati del film, che non c'è prova tangibile da nessuna parte che non esistono questi 30 minuti, cioè l'unica cosa tangibile che è stata tagliata da questo film è questa scena dei protagonisti in barca, praticamente ci sono anche delle foto, ma poi per il resto un cazzo, cioè Eyes Wide Shut è un film che comunque sta sui coglioni, nonostante appunto se ne parli, se si cerchi i significati nel film, eccetera, cioè è un film che comunque continua, secondo me, a stare sui coglioni a molti, viene considerato da molti uno dei peggiori del regista, perché non è pienamente del regista, quindi per come l'ha montato Spielberg, perché appunto è uscito postumo, e perché chiaramente lui era malato e poi è morto, ma poi, capito, cioè, va a denigrare il film per il montaggio, che cioè, veramente penso che Sue Chat cioè, abbia uno dei montaggi più belli che abbia mai visto in un film, vabbè, cioè proprio follia totale, e perché appunto l'ha montato Spielberg, e quindi è uno dei peggiori, uno dei film minori di gente che, ripeto, secondo me proprio se l'è preso a odio senza neanche capirlo questo film. Io, cioè, ora non voglio fare l'analisi cercando appunto varie teorie, chissà che, voglio semplicemente dire quello che per me Eyes Wide Shut è, legandomi anche appunto alla prima esperienza che ho avuto con questo film, che è relativa, lo vidi alle 2 di notte tra l'altro, d'estate, sul tablet, eresia totale, e quando appunto è arrivata la scena della setta, a metà film, io ho chiuso il film terrorizzato, completamente terrorizzato, e l'ho ripreso il giorno dopo. E veramente mi ha terrorizzato manco un horror questo Eyes Wide Shut, proprio per le atmosfere, per quello insomma che mostra. Poi è diventato in realtà uno dei miei film preferiti, cioè a mani basse, l'ho rivisto tantissime volte e tutte le volte che lo vedo ci trovo qualcosa di nuovo. È tratto dal romanzo Doppio Sogno di Schnitzler, romanzo che è di Arthur Schnitzler, che ho letto tra l'altro questo romanzo, strano, perché io, come fate un buon proposito per questo 2025, sarà a leggere più libri, e che in realtà segue anche fedelmente il romanzo, per quanto ovviamente sia ambientato in un'altra epoca e magari spinga anche più su alcuni tasti, però più o meno è molto fedele, diciamo, il romanzo comunque anche fantastico. Qual è la trama in breve di Eyes Wide Shut? Proprio dicendola in due soldoni, perché poi la trama per me non conta un cazzo in generale dei film, e tantomeno qua. E diciamo che alla fine parla di questa coppia sposata, interpretate rispettivamente da Tom Cruise e Nicole Kidman, questo Bill, questo dottore, e appunto Nicole Kidman, questa Alice, che appunto fa la mantenuta, diciamo, e hanno anche una figlia. Sembra una coppia apparentemente, diciamo, come dire, perfetta, no? Classica coppia sposata con soldi, benestante e via dicendo. Benestante, ma comunque, cioè, hanno sordi. Lui è un medico particolare perché fa visite a domicilio a gente decisamente ricca, molto anche più ricca di lui. Diciamo che loro sono comunque in un, possiamo dire, in un secondo gradino a livello di ricchezza. Questa cosa si intuisce un po' nel film, che non sono proprio completamente l'ago della bilancia, ecco, perché il film chiaramente parla di insomma, anche appunto di classi sociali, chiaro. E comunque praticamente succede, arriva appunto questa scena del film in cui loro si scopre innanzitutto che sono fumatori di marijuana, e questa notte, mentre fumano marijuana, la moglie, appunto Alice, racconta al marito questa fantasia sessuale che lei ha su quest'uomo, che in realtà ha visto solo di sfuggita, tra l'altro una sera a cena quando era proprio con il marito, e il marito, Tom Cruise, rimane abbastanza proprio perseguitato mentalmente da questa cosa. E quindi inizia a girovagare di notte, praticamente, si imbarca in alcune avventure stravaganti, fino a che non finisce poi questa villa dove c'è questo party, diciamo, chiamiamolo così, molto particolare, con questa setta, palesemente, e da lì, diciamo che appunto si mette, diciamo, in un casino, ecco, mettiamola così. Nel senso che poi, infatti, nella seconda parte del film, diciamo che prende molto il film, appunto, i toni di un thriller. Il film di base si può considerare proprio un thriller psicologico, più che altro, però prende anche proprio i toni di un giallo sul fatto che, appunto, la seconda parte è ricostruire quello che è successo la notte prima, ecco, e soprattutto le conseguenze che ne verranno. E poi, vabbè, l'epilogo definitivo, l'ho spiegata a cazzo di cane la trama, facendo fatica come sempre, ma cioè, proprio non so neanche perché la racconto la trama dei film di cui parlo, perché tanto per me non serve un cazzo in generale, soprattutto, ripeto, un film di questo, dove, come questo, che, cioè, dove è altro a parlare, non la storia di base, che alla fine è una cretinata. Allora, il film appunto ha come protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman, che penso comunque molti ce l'abbiano molto sui coglioni quando parlano di questo film, perché un po' denigrano anche la loro recitazione, che in realtà è ottima in questo film, nel senso che con Kubrick, cioè, reciterei bene pure io, cioè con uno che ti fa ripetere le scene a 250 volte, nel senso. E infatti Cruise penso che non abbia mai recitato così bene. Devo ancora vedere Collateral di Michael Mann, però non credo abbia mai recitato così bene come in questo film, neanche credo a Kidman, che comunque è un'attrice che a me non dispiace in realtà, forse penalizzata un po' dal doppiaggio molte volte. Cruise per me è proprio la classica, un po', cioè, come dire, il classico divo di Hollywood, bello e finisce lì, cioè, capito, nel senso, non tanto di bravura. In questo film è convincente comunque, e diciamo che comunque serviva, se gli servivano questi due divi di Hollywood per questo film, perché appunto voleva questa idea, appunto, della coppia che sembrasse vera, cioè, che, appunto, siccome loro stavano realmente insieme all'epoca, cioè, voleva appunto una coppia che venisse fuori questo rapporto di coppia tormentato, e distruggere anche un po' questi divi di Hollywood, ecco, mettiamolo così. Infatti dopo si sono lasciate, dopo questo film. E allora, è un film che secondo me si può analizzare sotto veramente vari aspetti. È un film che secondo me come tema principale possiamo dire che ha un po' il crollo delle certezze, nel senso, lasciando perdere anche il libro, appunto, che fa discorsi bene o male simili, diciamo che qui proprio c'è il crollo di quello che di quella che è anche qui proprio l'apparenza di, cioè, Tom Cruise è un personaggio estremamente, appunto, anche molti dicono, ma fa anche l'idiota in questo film. Appunto, è un idiota nel film, perché deve essere un idiota, cioè, nel senso, il film è quello. cioè il personaggio di Tom Cruise è un povero idiota che non si rende conto neanche, cioè non ha neanche la percezione del mondo in cui vive nel film, cioè lui pensa veramente di avere la moglie lì che l'aspetta a casa solo per lui e via dicendo, perché chiaramente ha questa mentalità che okay, l'uomo può avere istinti sessuali, anche che poi il sesso nel film è una cosa puramente proprio animalesca, cioè non ha altre funzioni in realtà nel film, cioè proprio inteso come, cioè anche se magari anche come riappacificazione anche nel finale eccetera, chiaramente farò degli spoiler ragazzi, ma sennò mi è impossibile. E però è proprio intesa come un istinto, cioè proprio il film ti riporta proprio all'essere umano come qualcosa di istintivo e basta, cioè Cruise è un uomo estremamente istintivo, un uomo che poi soprattutto, cioè non riesce ad affrontare la realtà che lo circonda, si vede, cioè lui quando scopre che la moglie ha fantasie sessuali, quante ne può avere lui, cioè lui gli crolla il mondo perché pensa, cazzo, può la mia moglie, quella che amo, la donna di casa, aveva fantasie sessuali, non ci posso credere. E quindi cioè, non sa neanche, non, la sua reazione è completamente istintiva, cioè piglia, va, gira e si mette nella merda da solo alla fine. E soprattutto si vede che cerca anche di rivendicare un po' il suo, cioè puramente l'orgoglio maschile animalesco, nel senso che va in giro a cercare di trombarsi tutte, ecco, detto in sostanza, dopo questa cosa che gli ha detto la moglie, perché appunto non vuole danneggiare il suo orgoglio maschile, ecco. Poi vabbè, tutto poi si collega anche alla prima scena in cui sono a casa di un personaggio fondamentale del film, adesso ne parliamo, di Ziegler, che è un, appunto un paziente di Bill, appunto il personaggio di Tom Cruise. Questo Ziegler interpretato tra l'altro da Sidney Pollack, mica cazzi, bravissimo, che appunto è un, lui veramente appartenente alla classe più alta, cioè appunto uno del, che ha gallerie d'arte, eccetera. Invita appunto la coppia a casa sua, e lì praticamente vediamo comunque già un po' il crollo della quarta parete, cioè vediamo appunto Kidman, diciamo, che viene intrattenuto da quest'uomo, e che appunto ha comunque anche, diciamo, un po' di interesse verso quest'uomo, e nonostante poi alla fine lo mandi a quel paese, chiaramente, però più si, cioè, rimane un po' il dubbio, nel senso, sembra più appunto per la stabilità matrimoniale, non perché lei realmente non voglia. E Cruise anche che, insomma, viene appunto abbindolato da queste due ragazze che chiaramente gli dicono ti portiamo dove finisce l'arcobaleno, questa frase chiave del film, insomma, chiave nel senso che dove finisce l'arcobaleno è il mondo che c'è, cioè il mondo vero, ecco, cioè il mondo che noi non conosciamo, nel senso che poi ti viene mostrato nel film, ma c'è quello che anche Tom Cruise stesso ignora. E poi appunto vediamo, no, subito la situazione strana di lui che viene chiamato appunto da Ziegler, che era a bombarsi una prostituta che è andata in overdose. E allora, praticamente sì, il film ti parla proprio di questo crollo delle certezze appunto da parte del personaggio di Cruise in primis, nel senso che è lui in realtà quello che è il personaggio principale del film. Diciamo che il film si potrebbe dire che appunto va, infatti anche il titolo del libro è chiarificatore di questo, segue le avventure di Cruise in contemporanea ai sogni della moglie che lei ha durante quella notte lì, tra l'altro è molto ambigui, che insomma, su cui anche lì ci sono appunto delle speculazioni, io non sto a fare chissà quali complotti, però appunto c'è questa cosa appunto del sogno e della realtà, diciamo, bilanciati, ecco, c'è appunto lei che comunque ha questi sogni, di questi incubi ricorrenti, dove appunto sogna cose che in realtà sono tutte di natura sessuale, e anche simili anche a cose che Bill fa quella notte, senso la scena della setta, chiaramente, perché appunto lui finisce in questa setta segreta, appunto, dove appunto si è introdotto per ficcare il naso, semplicemente appunto perché il suo amico pianista che suona lì per questa setta là gli ha parlato di questa setta qui, di questa villa dove fanno appunto queste sette e dove appunto fanno queste feste qua e quindi lui si è intrufolato. E sì, cioè quella scena lì della villa è terrificante, cioè proprio per me lì la colonna sonora, quello che si vede, proprio l'atmosfera, cioè veramente ti, secondo me proprio ti taglia completamente il fiato. Buonasera. Buonasera. Parola d'ordine, signore. Fidelio. Grazie, signore. Lì proprio ti cresce una tensione incredibile, cioè veramente dici che cazzo sta succedendo. Tra l'altro è bellissima comunque proprio la fotografia, vabbè, di Kubrick, ma di che cazzo si sta parlando, ragazzi? Cioè, c'è gente che c'ha pure coraggio di criticare sto film, di film minore Kubrick, ma di Kubrick non si può parlare di minore, vabbè. C'è appunto queste maschere bellissime appunto indossate da tutti i partecipanti e lì cioè veramente non capisci che cazzo sta succedendo. Poi c'è subito, tu vedi che questa setta poi chiaramente oltre a fare questo strano rito celebrato appunto da questo colonna sonora incredibile appunto dei Jocelyn Paul, questo strano rito appunto, questo a cerchio, queste donne appunto in cerchio tutte nude, si scopre che poi che appunto qui in quella villa lì fanno delle orge incredibili, cioè poi appunto successivamente bombano tutti come dei pazzi e come dei conigli e appunto diciamo che poi oltre al fatto che lui insomma viene invischiato in un casino perché non doveva partecipare a quella festa lì, viene appunto portato diciamo al centro della sala dove il sacerdote che ha celebrato la messa poco prima gli dice di levarsi la maschera e gli dice appunto che non dovrà più farsi vedere perché sennò ci saranno conseguenze per la sua famiglia e soprattutto ci sarà appunto questa donna misteriosa che si sacrificherà apparentemente per lui, cioè si farà ammazzare appunto da questi massoni alla fine, che si capisce appunto gente di ricchissima, quelli che fanno sta, infatti appunto anche questa cosa che lui arriva lì in taxi e loro chiaramente tutta gente che lascia le belle macchine, le limousine e via dicendo. E quindi appunto sembra apparentemente che questa donna si sacrifichi per lui e poi appunto torna a casa e c'è la moglie che appunto Nicole Kidman che gli racconta che ha sognato quella notte stessa questa una situazione estremamente simile alla situazione orgiastica e misteriosa appunto che ha vissuto lui poco prima. C'era tanta gente attorno a noi, tanta gente dappertutto, e tutti scopavano. Mio scopavo con altri uomini, con tanti uomini. Io non so nemmeno con quanti uomini ho scopato. Io sapevo che tu mi guardavi tra le braccia di tutti quegli uomini, proprio mentre li stavo scopando. E io volevo renderti ridicolo, riderti in faccia. E così ridevo, ridevo forte, più forte che potevo. Il personaggio di Cruise è proprio un uomo in balia degli eventi, che appunto poi nella seconda parte del film continua appunto in realtà a ficcare il naso, ecco, nel senso che praticamente vede che il vada all'albergo del suo amico pianista che suona appunto che suonava appunto al party, e vede che appunto lui è stato portato via la mattina presto. Parlando col portiere scopre questa cosa, e che aveva anche un livido sulla faccia, perché appunto probabilmente insomma gli avevano fatto pagare per appunto aver introdotto Cruise alla festa. E poi appunto ripercorre un po' quello che insomma ha vissuto la notte scorsa, riporta il costume a colui che l'aveva, al venditore appunto a cui l'aveva acquistato, appunto la maschera col mantello eccetera che ha usato alla festa, perché appunto la notte prima di andare alla festa era stato anche coinvolto in questa cosa molto folle, in questa situazione molto folle, dove aveva visto appunto dove era andato a prendere il costume, aveva visto questi due uomini orientali che appunto stavano lì diciamo vestiti da donna, con una situazione un po' ambigua, con la figlia di quello che le ha venduto il costume. Quindi assurdo, che poi fa intuire, cioè la notte lì quando era andato sembrava appunto che il padre della figlia, no, appunto volesse chiamare la polizia e mandare via gli uomini e via dicendo, come è giusto che sia. Invece no, poi praticamente l'uomo gli fa capire che lui fa prostituire la figlia sostanzialmente, cioè, perché gli fa: non vendiamo solo costumi, abbiamo fatto un piccolo accordo con questi due signori orientali, non vendiamo solo costumi noi, quindi se il dottore ha bisogno di qualcos'altro. E poi tra l'altro vabbè, c'è la frase che la figlia gli sussurra quella notte, la figlia del costumista gli sussurra appunto all'orecchio che io ti farei indossare un vestito di ermellino, che lì, no, tutte le varie teorie sul discorso l'animale dell'ermellino legato al sesso. Ora, insomma, comunque non mi sono informato poco su questa cosa, e niente, praticamente poi sì, la seconda parte è lui che poi viene convocato, scopre che praticamente questa donna è morta di overdose nel suo hotel. E questa donna qui era praticamente la donna che lui ha soccorso quando all'inizio del film era andata già in overdose, e poi dice nel giornale che è morta per questo overdose. In realtà poi lui ricollega e pensa che possa essere la donna che si è sacrificata, che è stata uccisa appunto apparentemente alla festa appunto in villa, appunto nella setta. E poi viene convocato da Ziegler, appunto colui che appunto era andato con la donna all'inizio del film e appunto il suo paziente ricchissimo, che gli dice: io ero alla festa, ho visto quello che hai combinato, stai lontano da quella gente lì, sai che quella gente lì cioè, non ti dico i nomi, ma se ti dico i nomi scoprirai che è gente molto ricca, non dormiresti per giorni se ti dicessi che cazzo sono quelli lì mascherati. C'ero anch'io a questa festa qui, e tutto il sacrificio quella donna lì era quella lì che appunto l'ha andata in overdose a inizio film, e in realtà tutto quello che ha visto, il sacrificio che l'ha fatto per lei alla festa, era tutta una burla, una messa in scena. E poi in realtà, nel senso, secondo me è una cosa che Ziegler gli ha voluto dire per cercare sempre chiaramente di mettere la polvere sotto il tappeto, perché queste sette devono sempre chiaramente cercare, sempre un mondo che deve cercare di nascondersi, quindi hanno fatto passare che è morta per overdose, ma in realtà secondo me è stata uccisa alla setta 100%, almeno per quello che penso io. Cioè, il film è proprio questo, cioè ti mostra quello che, cioè, tutto quello, diciamo, che vuole essere nascosto, ecco, in tutti i frangenti, appunto. E anche c'è, cioè, chiaramente proprio questo tema lampante della massoneria, di questi uomini ricchissimi che appunto spendono i loro soldi a fare quelle robe lì, che tutto legato appunto anche a cose che, insomma, cioè, succedono nella realtà. Poi ripeto, io non sto tanto a fare, cioè, a cercare tanti simbolismi, complotti tra la realtà e il film, però comunque chiaramente il film si rifà cioè, a cose che esistono, ragazzi. Cioè, proprio un film che ti descrive quello che tu non vuoi vedere del mondo, c'è poco da dire, partendo dal discorso della vita matrimoniale coniugale, ma poi proprio in generale, cioè su quelle che sono le cose che la gente non sa o che ignora. Era il meno che gli potesse capitare. Io non credo che ti rendi conto del casino in cui ti sei cacciato ieri notte. Chi pensi che siano quelli là? Non era mica gente qualsiasi, sai. Se io ti dicessi i loro nomi, e non te li dico, ma se te li dicessi, non dormiresti più tranquillo. Il film poi ha come grandissimo epilogo il, diciamo, un cercare appunto di riappacificare tutto, soprattutto anche a livello matrimoniale tra appunto Cruise e la Kidman, nel senso che si capisce che appunto Cruise racconta alla Kidman quello che gli è successo appunto durante la notte, nella giornata seguente, e poi anche la Kidman, insomma, gli parla dei suoi vari, sicuramente gli, non è che ti mostra la scena, nessuna scena, però ti fa capire che anche la Kidman gli avrà parlato appunto dei suoi cazzi, di tutte quelle robe lì che ha sognato, dei suoi pensieri, eccetera. E appunto poi si chiude il film con loro che vanno a comprare il regalo per la bambina, e appunto dicono, c'è la Kidman che li fa, noi adesso per cercare appunto di fuggire da tutti questi pensieri, c'è una cosa che dobbiamo fare assolutamente, scopare. E il film si chiude così. Diciamo che il finale secondo me è veramente azzeccatissimo, riporta un po' a tutto il senso del film, anche appunto al sesso visto come proprio istinto, cioè come proprio, sì, istinto animale alla fine, nel senso, sì, anche per, come riappacificamento, va bene, ma cioè, prevalentemente come istinto, secondo me, il sesso visto in questo film, cioè come una cosa che comunque manda avanti la società nel bene e nel male. Questo comunque è il discorso che fa Eyes Shut, e che appunto comunque tutti hanno desideri sessuali irrefrenabili, uomini, donne, e che poi in realtà, cioè, molte volte muove più quello, in qualsiasi caso, anche come eventuale soluzione, che altro, diciamola così. E poi vabbè, tutti i discorsi che ho detto sul potere occulto e via dicendo. È un film, ragazzi, secondo me incredibile, cioè proprio complessissimo. Io vi ho detto quello che mi suscita a me il film, ho cercato di spiegare come sempre a cazzo di cane, a parole mie, insomma, le mie sensazioni del film, come faccio sempre. Questo qui stiamo parlando proprio di uno dei miei film preferitissimi, cioè un film che amo totalmente. Per me è proprio, guarda, Kubrick cioè, potrei parlarvi ora di tutti gli altri suoi film, non mi stancherei mai. E è un film appunto comunque proprio visivamente anche incredibile, cioè veramente coinvolgente questo, cioè proprio la prima parte soprattutto è veramente qualcosa di pazzesco, cioè con queste atmosfere proprio cupe, sempre che capisci che sta andando sempre più tutto, cioè tu segui il film ma capisci che sta andando sempre tutto peggio, nonostante non sai mai che cazzo sta succedendo. Diciamo che la seconda parte, se vogliamo, voglio proprio forzatamente trovare un neanche un difetto, ma fare una mezza parola negativa sul film, anche se non è mezza parola, è che magari la seconda parte è un po' meno potente della prima, nel senso che chiaramente è un po' ripercorrere quello che è successo la notte prima, con scene credibili comunque, l'epilogo, il finale pazzesco, però insomma poi diciamo che il film appunto verso la fine del film si evolve un po' con appunto con questa atmosfera da thriller, dove Cruz rivaffica il naso su quello e ha anche ripercussioni su quello che è successo appunto la notte prima. Però comunque un film secondo me eccezionale, veramente proprio angosciante, cupo, cioè veramente peggio di un horror in certi punti, ragazzi, questo film. Cioè la scena della setta è allucinante, le musiche proprio così misteriose, inquietanti, poi c'è questa proprio colonna sonora veramente fuorviante in certi punti, cioè veramente allucinante proprio. Anche la colonna sonora è devastante, proprio anche ascoltarla è veramente inquietante. E niente, ragazzi, cioè per me stiamo parlando di un film che proprio secondo me va visto, rivisto, rivisto, rivisto, perché cioè, questo è il bello del cinema, cioè proprio guardare un film che ti lascia sensazioni che magari all'inizio non sa neanche cosa sono, ma poi ci ripensi, riguardi il film perché ti viene voglia di riguardarlo. Questo secondo me è il cinema, cioè il cinema è sensazioni, input che ti arrivano, non è tanto nella storia, questo è il mio punto di vista, chiaramente. Grandissimo film. Bene, questa puntata direi che possiamo finirla qua, nel senso ho parlato anche molto abbondantemente. Io penso che in realtà non, insomma dai, tutto sommato per tutte le cose che, cioè ripeto ragazzi, potrei dirne altre 2000 su Sbesciato, però si finisce domani mattina. Io voglio essere nel senso generico, dicendo proprio alla fine quello che il film suscita a me in primis, le sensazioni, senza stare a far troppo il curriculum del film e quant'altro, diciamo. E comunque diciamo che secondo me si può chiudere qui. Penso che come puntata, considerato che da tanti mesi non registravo, non è che mi sia venuta così di merda, poi insomma magari mi saprete dire voi, valuterete voi. Adesso appunto ripeto, voglio cercare di tornare a registrare di più, caricare di più, fare anche qualche diretta e farle sempre magari più strutturate, più belline le puntate, andare anche appunto a toccare dei temi appunto magari anche particolari, legati, cioè magari fare delle piccole rubriche, dei piccoli diciamo appunto sì, delle piccole rubriche su qualche tema in particolare che posso riallacciare appunto a vari films, come in questo caso, insomma magari se è un film appunto con tematiche diciamo con questa tematica un po' del vedo non vedo, del crollo delle certezze, del appunto insomma magari fare in breve magari anche qualche altra puntata dedicata a film o a temi appunto simili a quelli di Eyes Wide Shut, ecco, per rimanere magari un po' anche in tema eccetera, fare appunto ripeto una sorta di piccola rubrica. Comunque questo era, magari mi sono impappinato un po' di volte, comunque spero diciamo che insomma l'abbiate ascoltata volentieri questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento insomma alla prossima, chiaramente. Io non so quando sarà, non so neanche quando sentirete questa puntata, comunque vi saluto. Ciao bombate e bombate.